Massimo, se tu vuoi fare una domanda da collega, o se ci vuoi raccontare un tuo parere su quello che hai visto. Sto mettendo in mano. Ciao a tutti, mi chiamo Massimo e anch'io faccio l'apicoltore. La nostra realtà è un po' diversa da questa qua della Sicilia, qua al nord. Il filmato è molto bello, secondo me. Rende un poco l'idea di cosa vuol dire fare l'apicoltore, perché a vedere Antonio sembra quasi che sia sempre in vacanza. Credo che in realtà non sia proprio così, insomma c'è molto da correre perché le produzioni iniziano e finiscono, le fioriture si bruciano molto in fretta, specialmente qua da noi al nord, dove la stagione inizia ormai a fine aprile e a fine luglio è già finita, sono tre mesi qua si fa apicoltura, mentre invece giù da loro è molto più lunga. Che altro dire? Insomma, il filmato secondo me è molto bello, le terre della Sicilia sono affascinanti, ti viene voglia di assaggiare tutti questi mieli. Non so se qualcuno ha qualcos'altro da dire. Io non... Posso fare una domanda? Ma su questo fatto della... peggioramento delle condizioni ambientali e di conseguenza della possibilità di produrre, di vivere in serenità delle api, come abbiamo visto esiste anche qui, in che proporzioni, negli ultimi anni, se ci sono state delle evoluzioni? Sì, qua da noi i problemi sono stati, come ha accennato Antonio all'inizio, più che altro sono quando i contadini seminano il mais. Ci sono questi prodotti di nuova generazione che si chiamano neonicotinoidi e vengono usati per conciare le semenze del mais. Praticamente non solo del mais, qua da noi per il mais, però so che vengono usati anche per i girasoli in centro Italia e anche per altri tipi di semi. Comunque, questo è una polverina, è pochissima, veramente pochissima. Se prendete un chicco di mais quasi non sporca nemmeno le dita. Però quando i trattori passano a seminare, questa pochissima polverina sembra che venga trasportata addirittura per 4-5 chilometri. E quindi si deposita sul fiore del tarassaco, che qua da noi sta fiorendo in quel periodo, intorno alla metà di aprile, dalla metà alla fine aprile, sull'argine del fosso, sul prato di fianco, e le api come si avvicinano impazziscono. Praticamente sembra che il neonicotinoide prenda i centri nervosi dell'ape e si vedono uno spettacolo molto triste, è bruttissimo da vedere. Si arriva qualche giorno prima, si vedono gli alveari molto popolosi e poi si arriva e si vedono veramente manciate di api che stanno morendo, si rotolano per terra e stanno morendo perché sono colpite in questi centri nervosi. Adesso sembra che l'unione degli apicoltori abbia portato qualcuno a verificare un po' questa cosa che fino ad ora era lasciata in mano solo alle case farmaceutiche, semenziere, quelle che conciano le semenze, quindi non so, la Bayer, la Cruiser e chi altro c'è dietro. Mentre invece adesso qualcuno ha fatto degli studi e sembra che la cosa esista sul serio, è vero, finalmente ci stanno ascoltando, e per quest'anno non hanno abolito questa cosa, ma l'ha sospesa, quindi vedremo gli effetti. E poi ci sono anche altre cose che non ci stanno aiutando molto, perché ci sono parecchi pesticidi, perché poi non è finita qua, sono arrivati nuovi insetti, c'è la diebrotica del mais, ci sono problemi sulle viti, la piralide, e si stanno attrezzando i contadini per trattare con questi trattoroni enormi che entrano dentro nel campo di mais quando è già alto più di 2 metri. E non lo so che futuro ci aspetterà. Noi purtroppo, noi apicoltori, credo che le cose le vediamo subito, insomma... purtroppo io credo che noi dovremmo viaggiare a braccetto con i contadini, ma non è proprio così. Forse si faceva in passato, forse si fa in qualche posto dove ci sono gli agrumeti, gli agrumeti oppure le serre, dove hanno bisogno appunto delle api e quindi useranno un occhio particolare. Ma qua da noi non è proprio così. E non so, vedremo in futuro cosa succederà.